Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, buon lunedì, buona settimana. Vorrei iniziare proprio con un abbraccio. Voi sapete sempre che io ho creduto nel valore terapeutico di questo gesto. Bene, la ricerca mi dà ragione. Abbracciarsi almeno una volta al giorno migliora la salute perché aumenta il senso di benessere, allontana lo stress e rafforza il sistema immunitario. Parola di Ian Armstrong e Lena Forssell, due ricercatori svedesi che in un articolo pubblicato sulla rivista Comprehensive Psychology sono arrivati a questa conclusione. Stringere o farsi stringere tra le braccia ha un effetto benefico sull'organismo. Abbracciarsi per almeno 10 secondi al giorno riduce lo stress e fa diminuire la sensazione di fatica. L'abbraccio poi ha un effetto antidepressivo perché aumenta la concentrazione di ossitocina, l'ormone del buon umore. Buoni anche gli effetti sul cuore. Abbracciarsi abbassa la pressione alta e rallenta i battiti cardiaci nelle donne in premenopausa. Che dite, vi ho convinti? Il riscontro, possiamo dire, è a portata di braccio. Provate ad abbracciare una persona amica che vi sta accanto, chiamatemi per dirvi che cosa state provando, 800 24 00 24. Se proprio non volete mettervi alla prova con un abbraccio, fatelo magari con una carezza. Nel frattempo vi presento gli ospiti di oggi. In studio con me la dottoressa Riccarda Serri, dermatologa, presidente di Skineco, l'associazione di dermatologia ecologica. Buona giornata, dottoressa. Buona giornata, Nicoletta. E a tutti i nostri ascoltatori. Noi ci siamo abbracciate prima, quindi noi siamo a posto. Noi ci abbracciamo, poi ci vogliamo bene. Certo. E lo stesso abbraccio, e voglio presentare qua in studio con me Alessandra Callegari, counselor, esperta di bioenergetica, formatrice. Grazie ovviamente Alessandra. Un abbraccio anche da parte mia. Guarda, oggi ne abbiamo bisogno perché come buongiorno ho aperto la posta e c'era una mail cattivissima di questo ascoltatore Alessandro che mi ha massacrato, a cui regaliamo questo un abbraccio perché comunque mi ha dedicato del tempo. Farà bene anche a lui, chissà. È il contatto fisico. In una città vera si cammina, si sfiorano altri passanti, si sbatte contro la gente. Qui a Los Angeles non c'è contatto fisico con nessuno. Stiamo sempre dietro metallo e vetro. È il contatto fisico. Il contatto ci manca talmente che ci schiantiamo contro gli altri solo per sentirne la presenza. Alessandra, abbracciarsi ci fa bene, la ricerca lo dimostra, noi anche lo avvertiamo, di solito abbracciamo le persone con cui sentiamo un feeling, un legame, un affetto, entriamo in contatto con l'altra persona, anche perché la nostra conoscenza passa proprio attraverso il tatto, che è una sorta di ponte che ci mette in comunicazione con il mondo che ci circonda, un mondo fatto di cose, di persone da conoscere, da esplorare, da cui ricevere emozioni e anche nutrimento. Quindi io oggi insieme a te vorrei proprio esplorare il tatto secondo una lettura della bioenergetica. Certo, come dici giustamente tu, il tatto è uno dei sensi più importanti. Mi viene da dire come prima cosa che, per esempio, proprio nelle classi di esercizi bioenergetici o nei lavori che si fanno sulla consapevolezza corporea, uno degli esercizi più interessanti che fanno scoprire un sacco di cose a chi partecipa è esplorare il tatto eliminando, per esempio, il senso della vista, che è ovviamente quello con cui controlliamo di più il territorio. Allora, quando si fanno lavorare le persone a occhi chiusi o addirittura andando un po' più in profondità con una mascherina sugli occhi, è interessantissimo perché hanno la capacità, la possibilità, l'opportunità di esplorare che cosa succede dentro di sé quando a questo punto il mondo lo esplorano soprattutto col tatto, anche nell'incontro con gli altri. Per esempio, un esercizio interessantissimo è far camminare le persone prima a occhi aperti, lentamente, quindi sentendo l'appoggio a terra, sentendo che cosa si prova, e poi chiedere di proseguire a occhi chiusi. Lo faccio per esempio con i ragazzi quando faccio dei laboratori di bioenergetica nelle scuole. Allora è interessante vedere che subito, perso il controllo della vista, ci si deve affidare al contatto, ma nello stesso tempo il contatto fa entrare in connessione con un altro, nell'incontro con un altro, e per molte persone l'incontro è pauroso, è ansiogeno, no? E allora lavorare su questa esplorazione di contatto, di ogni avanzare tanto, con quindi, le mani. Chiudiamo gli occhi e usiamo le mani. Assolutamente. Dottoressa Serri, il dermatologo usa molto il senso del tatto, perché vede la pelle, ma deve, voi siete anche medici, noi che dovete... La tocchiamo, la capiamo, la interpretiamo, e per capire una pelle bisogna toccarla. Mio papà era un vecchio dermatologo, classe 1916, e mi ha sempre insegnato che se non tocchiamo il paziente non lo guariamo. Ed è vero, perché... È anche molto particolare il paziente dermatologico. Il paziente dermatologico molto spesso esprime attraverso la pelle anche dei disagi di comunicazione, disagi che il medico può aiutare a superare proprio mettendolo a proprio agio e facendolo sentire accolto e amato. Toccare, accarezzare fa sentire la persona accolta, amata, al di là dei neurotrasmettitori che attiva. Nello stesso tempo il tatto può anche essere fastidioso. Quando qualcuno ci si avvicina troppo, e qua c'è una scienza molto interessante che si chiama prossemica, e supera determinate distanze, determinate barriere, e ci tocca, noi lo viviamo come aggressione. Per cui è molto importante l'avvicinamento, ma che sia un avvicinamento che non dia un segnale di aggressività in chi è toccato. Anche se poi mi viene da dire aggressività è una parola che oggi è connotata negativamente, ma se andiamo all'etimologia, aggredir vuol dire vado verso. Quindi in realtà... la sana aggressività espressa da un abbraccio, nel senso che sono andata verso una persona e l'ho abbracciata, si può confrontare con l'aggressività di andare verso qualcuno per dargli uno schiaffo o un pugno, no? Quindi c'è un'aggressività che è sana, che è fondamentale, è dell'andare verso l'altro, no? L'andare, certo, verso l'altro è proprio quello come dell'abbraccio. Troppo, il superare determinate distanze è comunque inconsciamente vissuto piuttosto male. Intanto raccogliamo le telefonate all'800 24 00 24. Potete seguirci su Facebook e su Twitter dei nostri ascoltatori, che possono anche scriverci al 349 238 6666. Molti lo stanno già facendo, commentando che cosa provano nel quando abbracciano o si sentono abbracciati. Oggi esploriamo quindi pelle e tatto, e a proposito di aggressioni, inizia una settimana particolarmente fredda, la nostra pelle verrà aggredita non solo da abbraccio, da carezze, ma anche proprio dalle temperature piuttosto rigide. Sì. E anche lei reagisce un po' come una persona che si sente in qualche modo invasa da un altro che non gradisce troppo. Si arrossa, si screpola. Ci sono tanti indicatori che ci raccontano come la nostra pelle reagisce al freddo, e forse riusciamo anche a capire di che cosa ha bisogno la nostra pelle per proteggere. Certo, perché il freddo, e soprattutto se il freddo è unito al vento, è un insulto ecologico per la nostra pelle. Noi abbiamo certamente un film idrolipidico e l'epidermide, lo strato corneo dell'epidermide, lo strato più esterno, che fa da barriera. Però che cosa succede quando fa troppo freddo? Che le zone più estreme, cioè il fuori del nostro corpo, si sacrifica e cede il sangue agli organi interni, per cui c'è una vasocostrizione, arriva anche meno nutrimento. Questo nutrimento noi lo dobbiamo dare dall'esterno, e lo diamo sia per proteggere la pelle sia per nutrirla, perché arrivandole meno sangue le arriva anche meno acqua. E è importante darle un nutrimento nobile. Come noi, quando mangiamo un bel piatto di insalata, la condiamo con l'olio extravergine di oliva, con oli buoni e non con olio di paraffina, così alla nostra pelle, alla nostra epidermide, per riformare sia il film idrolipidico sia soprattutto quel cemento intercellulare fatto essenzialmente da grassi. Il cemento, diciamo che è quel mattone che tiene unite le cellule dell'epidermide. Quel cemento è fatto da lipidi. Bene, io voglio dare dei lipidi nobili che aiutino quel cemento. Voglio dare delle ceramidi, degli oli vegetali. Non voglio dare paraffina e non voglio dare siliconi in eccesso. E poi ne parleremo. E quindi, come al giovedì parliamo di alimentazione, mangia con me, e sottolineiamo l'importanza di nutrirci in modo corretto, equilibrato, scegliendo i prodotti di stagione, possibilmente a chilometro zero, insieme alla dottoressa Serri cogliamo l'occasione per invitare le ascoltatrici e gli ascoltatori, in occasione dell'inverno, di fare scelte più rispettose della loro pelle. Dottoressa Serri, è d'accordo? Sono assolutamente d'accordo. Con questo non voglio dire che se non facciamo così noi diamo dei veleni. Le quantità contenute nei prodotti cosmetici di ingredienti che non ci piacciono tanto sono molto basse. Io però penso all'accumulo, accumulo giorno dopo giorno, accumulo nel corso di una vita, e quindi questo è importante. Perché ci sono delle pelli che sono molto reattive, ma è spesso una reattività che possiamo un po' paragonare a una sorta di indigestione prodotto da un uso sbagliato eccessivo di cosmetici. Esatto, perché se ne usano troppi, si pasticcia, soprattutto se la pelle è sensibile. Allora, partiamo da un presupposto: la pelle ha ragione quasi sempre. Molto spesso la pelle si ribella. Quindi, quando la pelle dà delle manifestazioni di reattività, che sono delle manifestazioni di ribellione, invece di andare a cancellare quel sintomo, è come tagliare le corde vocali a uno che urla. Andiamo a capire perché la pelle sta urlando in quel momento. Quindi diteci se la vostra pelle si lamenta. Stiamo parlando di rossore, prurito, secchezza, ma diteci anche che cosa avvertite a fior di pelle, perché oggi insieme ad Alessandra Callegari avremo invece una lettura bioenergetica della nostra piacevolezza, del nostro disagio nel venire a contatto, a proposito di tatto, con l'altra persona. Volevo solo aggiungere una cosa, che noi molto spesso, quando pensiamo alla pelle, pensiamo alle creme, ai cosmetici, ai detergenti. Teniamo presente anche i tessuti che stanno a contatto della pelle tantissime ore. Questi sono fondamentali. Greenpeace sta facendo una specie di campagna detox tutti i tessuti. È molto importante valutare sia con che detersivi si lavano questi tessuti, che i detersivi siano sciacquati bene. Le nuove lavatrici hanno sciacquano poco, ma sciacquano meno con l'acqua. Sì, bisogna fare un doppio risciacquo. E attenzione a tutto quello che si usa dopo il lavaggio, cioè ammorbidenti, appretti, spray, profumi, perché tutto quello che rimane intrappolato nei tessuti rimane lì intrappolato grazie a molecole che spesso la pelle non ama tanto. E guardiamo anche i tessuti stessi, come sono fatti e da dove vengono. Quindi oggi vi mandiamo davanti allo specchio a vedere se ci sono delle zone lungo tutto il vostro corpo arrossate, screpolate, se avvertite in questo periodo, quando fate la doccia, la pelle che tira, se vi mettete la crema, l'olio dopo il bagno per piacere o per necessità. Parlateci, andate a vedere anche i prodotti che utilizzate per lavare i vostri indumenti. Attenzione alla qualità degli indumenti che indossate, ma ritorniamo di nuovo al tatto, al contatto, alla pelle, per capire quanto la vicinanza con l'altro, le carezze, gli abbracci ci possono dare piacere o in qualche modo creare una sensazione di disagio. E andiamo ad Andrea, che ci chiama da Padova. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Io volevo dire questo a proposito dell'abbraccio. Io ballo tango argentino due o tre volte alla settimana, e in una serata si finisce per abbracciare un'altra persona, perché si balla con varie persone per un paio d'ore. Volevo capire se anche questo è benefico ai fini dell'abbraccio. Dai, mi dici che l'abbraccio dà di solito. Andrea, una cosa. Sì. Pronto? Sì, la sentiamo. Le donne spesso, quando si balla, ballano ad occhi chiusi. Volevo sapere se questo rientra in quel tipo di casistica di cui parlavate prima. Grazie Andrea. Rispondo volentieri ad Andrea. Nel senso che questa osservazione sul chiudere gli occhi... Di fatto, chiudere gli occhi e quindi eliminare gli stimoli visivi, adesso a prescindere dal contesto del tango, è utile perché ci permette di sentire di più, no? Di entrare maggiormente in contatto sia con le sensazioni fisiche che con le sfumature, gli stati emotivi. Quindi chiudere gli occhi ci permette di essere in effetti in maggiore contatto con noi, no? E diciamo che mediamente, non voglio ovviamente essere categorica, però è un fatto che le donne sono più portate, cioè più facilmente entrano in contatto con se stesse, quindi è più facile, lo si vede anche nei gruppi, che siano in grado di fare questa operazione di ascolto di sé. Questo senza nulla togliere ovviamente alla capacità e sensibilità maschile da questo punto di vista. Mi viene da dire che l'accenno al tango è interessante perché è vero che in molti balli, e il tango sicuramente lo manifesta al massimo grado, in molti balli abbiamo la occasione di essere in forte contatto con l'altro, no? In un contatto intimo, mi viene da dire. E quindi ecco perché, per esempio, il ballo può avere una forte valenza terapeutica. Il tango argentino, il tango ce l'ha, viene usato anche in questo perché contesto. Perché fa superare dei blocchi, delle tensioni, una sorta di timidezza nella gestione del proprio spazio, certo, del proprio esatto, mette in contatto corpo con l'altro e fa quindi fare tutta un'operazione di consapevolezza su quanto è difficile, su quanto ci si può lavorare sopra. Prima dei mercati, dottoressa. Sì, no, volevo solo dire che una nota più di costume. Rosita Celentano ha appena aperto a Milano una scuola di tango e mi voglio proprio iscrivere. Vengo con lei. Ecco, andiamo insieme. Prima dei mercati, dottoressa Serri, a proposito di pelle, anzi di epidermide, prima della messa in onda, lei ha suggerito il quiz di oggi che le invito a proporre ai nostri ascoltatori con termini molto rigorosi. Molto rigorosi. L'epidermide, cioè lo strato più esterno della nostra cute, da che foglietto embrionale deriva l'embrione? È il feto che si forma nella pancia della mamma. Deriva dall'ectoderma, che è lo stesso foglietto embrionario del sistema nervoso, dal mesoderma o dall'endoderma? Ecto, meso o endo? 800 24 00 24, dato che parliamo di pelle, la vogliamo coccolare, la vogliamo conoscere meglio, proteggere dalle aggressioni, dal freddo, nutrire in modo adeguato. In una parola, vogliamo regalare alla nostra pelle e a tutto quello che rappresenta una trasmissione e consigli di benessere. Guida al benessere per la risposta esatta e motivata al quizzettone che ha suggerito la nostra dottoressa Serri, dermatologa per amica. Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù, sabbia bagnata. Una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili. Arriva il freddo, le temperature si stanno abbassando e noi dovremo fare i conti con naso rosso, mani screpolate, labbra aride, pelle del viso che tira. Dottoressa Serri, è il momento di nutrire, dare alla nostra pelle un nutrimento aggiuntivo? Sì, ma attenzione. Come è importante nutrire, ma bene, senza ingolfare il corpo, lo stesso succede con la pelle. Quindi la cute va detersa con attenzione mattino e sera. Se vuoi usare un latte, una mousse, un sapone liquido, una crema detergente, poi tolta con una spugnetta o un pannetto di microfibra bagnato e delicatamente massaggiato, e poi va applicata una crema. Una crema è sempre un'emulsione fra un'acqua e un olio. Quando è preponderante la parte di acqua si dice emulsione olio in acqua. Quando è preponderante la parte di olio, cioè i lipidi, si dice emulsione acqua in olio. Quindi, a seconda di come è la pelle, si prende un'emulsione più leggera o un'emulsione più ricca. In genere le più leggere si mettono al mattino, le più ricche alla sera, ma se c'è vento si possono mettere le più ricche anche alla mattina. L'importante è che la parte di olio dell'emulsione acqua in olio, olio in acqua, sia a base di lipidi da chimica verde, come il capric trigliceride, ricordate questo nome che leggete nella lista degli ingredienti, è un grasso da chimica amica che deriva da sostanze naturali, oppure proprio lipidi vegetali, c'era jojoba, burro di karité, olio di argan, olio di macadamia, olio di noce, trovate tutti questi oli e tutti questi burri con il nome latino nella lista degli ingredienti che è del cosmetico. Quindi i nomi latini sono... Ci piacciono di più. No, beh, non ci piacciono di più, perché, come dicevo, anche la chimica verde. Poi un cosmetico, una buona crema deve essere emulsionata con un emulsionante. L'emulsionante deve essere da chimica verde. Quello che voglio dire è di cercare di evitare quei prodotti che all'inizio degli ingredienti abbiano paraffinum liquidum oppure i siliconi come ciclometicone, finiscono dimeticone, inone in, e in siloxane, perché sono quei lipidi che vanno a idratare solo per via occlusiva, cioè impediscono la perdita di acqua. Ma in realtà questi lipidi, quando vanno a mettersi nel film idrolipidico o nella barriera tra le cellule, non portano nutrimento. E ai cheratinociti possono andare bene per un po', certamente. Ma se sono presenti in fondo alla lista degli ingredienti, nelle parti basse, vuol dire che ce n'è veramente possiamo tollerarli. E possiamo assolutamente tollerarlo. Dottoressa Serri, intanto noi sappiamo che in inverno si ripresentano delle malattie, dei disturbi della pelle che in estate, dopo l'esposizione solare, avevano avuto un miglioramento. Parlo delle dermatiti, parlo di alcune forme di acne, parlo della forfora, noi stiamo parlando di pelle, anche il cuoio capelluto è pelle, certo. E quindi risente sicuramente del cambio stagionale. Osservatevi e chiamateci 800 24 00 24, invece con Alessandra Callegari. Alessandra, la dottoressa Serri parlava dei lipidi e parlava di nutrimento. Noi possiamo anche nutrire la nostra pelle in altro modo, oltre che nutrirla con le creme che possono dare un'aggiunta di quello che le manca e con una corretta alimentazione. Infatti, mentre parlava, mi veniva subito in mente il fatto che, al di là della sostanza, del tipo di sostanze che usiamo per nutrire la pelle, e giustamente devono essere sostanze il più possibile adeguate all'obiettivo, è anche il come usiamo questi prodotti. Quindi massaggiare è fondamentale, ed è bellissimo rendersi conto, se si comincia a farlo, che massaggiare è importante, non solo l'altro, e quindi ricevere massaggio, ma con sé. Il gesto di automassaggiarsi in qualsiasi parte del corpo, mi viene da dire, è un gesto di profondo rispetto e amore per sé, no? Quindi c'è un nutrimento affettivo, emozionale, che si aggiunge al nutrimento oggettivo dato dalla sostanza che usiamo, no? Quindi imparare a dedicarsi un po' di tempo per massaggiarsi il viso, evidentemente, ma massaggiarsi le mani, massaggiarsi i gomiti che vengono così spesso dimenticati, trascurati, infatti. Arrivo a dire massaggiarsi i piedi, no? Massaggiarsi anche le parti, tra virgolette, lontane del corpo, quelle che tendiamo a dimenticare di più, è non solo sano, ma è un atto di amore profondo, di contatto profondo, che ci nutre l'anima, mi viene da dire. Dottoressa Serri. Sono assolutamente d'accordo. Oltretutto, il toccarsi, il farsi del bene ha anche delle utilità, perché noi sappiamo che se per esempio ci massaggiamo le tempie con le due dita, oppure ci tocchiamo i polsi, oppure ci tocchiamo in certi punti, stimoliamo anche dei riflessi di guarigione, facciamo un piccolo shiatsu, insomma, nei nostri confronti. E i cheratinociti sono degli ottimi messaggeri. Comunque dai cheratinociti partono dei trasmettitori, dei peptidi trasmettitori, che arrivano proprio a parlare col nostro cervello, quindi lanciano dei messaggi. Si è sempre pensato che le cellule, per esempio, dello strato corneo che è l'ultimo strato della pelle, fossero cellule morte, decedute, inutili, guscio privo di nucleo. Invece noi oggi sappiamo che sono importantissime proprio perché lanciano anche dei messaggi. Dal cheratinocita, effetto domino, dal corneo arrivano dei messaggi. Come molto importanti sono le membrane cellulari, lo studio delle membrane cellulari. Tutte le membrane cellulari del nostro organismo sono tutte connesse tra di loro e sono ben fatte di lipidi, comunque tanto per... Ho un messaggio. La mia Chiara ha il contorno della bocca molto arrossato, tiene spesso le mani in bocca e ultimamente col freddo è peggiorata. Zona molto delicata, nei bambini e non solo, dottoressa Serri, intorno alle labbra. È incredibile come la zona delle labbra e intorno alla bocca, soprattutto nei ragazzini, possa essere secca. Questo parte la secchezza, uno comincia a... masticarsi, a grattarsi il labbro, a toccarsi, e questo peggiora sempre, produce saliva. Inoltre i bambini, soprattutto nel momento dello svezzamento, hanno questa bocca da clown, sì, che è buffa perché proprio sono proprio rossi perché il cibo si sparge. Allora, applicare rigorosamente dei labiali che non abbiano dentro siliconi. Io sono un po' noiosa e insistente, ciclometicone, dimeticone, non abbiano paraffina liquida. Devono essere a base di o certificati ecocompatibili, oppure andate a guardare sul sito di Skineco. Skineco è un'associazione scientifica no profit. Ci sono aziende che seguono la filosofia di Skineco e che sono chiaramente amiche di Skineco, e queste aziende sono sul sito di Skineco. Oppure andate a cercare i prodotti certificati con che siano eco, bio o ecodermo compatibili. Usare assolutamente quei prodotti per le labbra, usare olio di vitamina E sulle labbra, e prima di mangiare, soprattutto i bambini piccoli, nel momento dello svezzamento, per esempio, applicare sulla bocca, intorno alla bocca, una pasta all'ossido di zinco, bella grassa, quella che usano per i bebè, per il culetto, insomma. Brava. 800 24 00 24, molti messaggi, dottoressa Serri, chiedono il suo intervento, alcuni suoi consigli per il dopo doccia. Io ho chiesto ai nostri ascoltatori: quando fate il bagno, vi mettete subito dopo la crema per piacere o per necessità? 800 24 00 24, stiamo... accorgendoci, l'abbiamo sempre saputo, che la nostra pelle però è particolarmente sensibile al contatto, sensibile agli agenti esterni. Parleremo anche di pelle sensibile con il nostro dottor Marco Rossi. Buongiorno dottor Rossi. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Psichiatra e sessuologo che al termine sensibilità naturalmente dà un altro significato rispetto a quello suggerito dalle nostre esperte qua in studio con me. Dottor Rossi, eccoci qua. Eccoci qua. Per fortuna la pelle è sensibile. Ma per fortuna sì, ma poi teniamo conto di una cosa: se parliamo di sessualità, di solito noi ci confondiamo o pensiamo sempre alle cosiddette zone erogene, no? Che sono delle parti del nostro corpo, quindi delle parti della nostra pelle, che sono considerate più sensibili per accendere l'eccitazione e accendere la sessualità. Ma in realtà tutto il nostro corpo e tutta la nostra superficie corporea e tutta la nostra pelle è un'immensa zona erogena. Noi dobbiamo tenere conto di questo, ed è bellissimo da questo punto di vista uno studio che è stato pubblicato sulla rivista Nature Neuroscience, perché individua addirittura delle fibre sensitive, o meglio dei nervi, che sono stati definiti i nervi citattili, che sono quelli più sensibili alle carezze. Allora, il bello è questo: una carezza la si identifica, e questo studio lo evidenzia, quando la velocità del passaggio della mano sulla pelle è di intorno ai 4-5 centimetri al secondo. Allora, queste carezze danno una stimolazione estremamente piacevole. Quindi è piacevole ovviamente nel contatto, ad esempio, della mamma con il bambino, ma invece all'interno di un rapporto di coppia questo tipo di contatto è un contatto che accende l'eccitazione. Tutto provato e misurato, quindi non resta che provare, dottor. Esatto, allora io do un consiglio. Certo. Per le coppie. Allora, dato che normalmente quando si pensa ai rapporti sessuali si pensa sempre a farlo in un certo modo, allora io dico: almeno una volta al mese cerchiamo di pensare a dei rapporti sessuali che non sono rapporti penetrativi, ma sono solamente dei rapporti sessuali in cui ci si carezza solamente. E lasciamoci andare a questo tipo di piacere. Anzi, tu pensa che ci sono degli studi che indicano che le donne che hanno più sensibilità nella pelle sono anche quelle che vivono meglio l'orgasmo. E questa sensibilità, io dico, si può allenare però andando a stimolarsi all'interno di rapporti non penetrativi ma di carezze. Grazie dottor Rossi. Voleva aggiungere Alessandra Callegari proprio a proposito di massaggio, ma relativo a mamma e bambino. Infatti, quindi mi riallaccio a quello che diceva Marco Rossi, ed è verissimo, si allena la sensibilità e la si allena fin dai neonati, per cui esiste proprio quello che viene chiamato massaggio bioenergetico dolce, che tra l'altro si può imparare andando su internet, si trovano i corsi, durano poco, sono facilmente accessibili a tutti e sono dei corsi per le mamme in gravidanza, che già cominciano a sperimentare su di sé e imparano a massaggiare con questo massaggio delicatissimo, dolcissimo, carezzevole, i propri bambini appena nati, stimolandoli così e insegnando loro questa sensibilità che si porteranno dietro tutta la vita, una sensibilità aperta al piacere, che è quella che dovremmo avere tutti. Grazie al dottor Rossi per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi, arrivederci, a presto. Vanna ci chiama da Torino, buongiorno Vanna, benvenuta. Buongiorno, io ho 65 anni e ho un problema della pelle, ma da parecchio tempo, ho la pelle molto molto molto secca, sì. Per cui io uso delle creme senza profumo, coloranti, conservanti. La cosa che mi irrita di più è quando faccio la doccia. Io faccio la doccia tutti i giorni mi gratto in un modo incredibile perché ho un prurito quando esco dalla doccia e mi asciugo. È come se l'acqua producesse, dottoressa Serri, esatto. Questa forma di prurito, questa allergia. Dottoressa Serri, è sbagliata? Con l'acqua bisogna lavarsi? Beh, con l'acqua sì, certamente, però ci sono parecchi casi, se non proprio di allergia vera e propria all'acqua, che si chiama orticaria acquagenica, anche scatenata dall'acqua, la signora ha un prurito temporaneo che poi si risolve, per cui non è una vera e propria allergia. In questi casi la cosa migliore è comunque fare un bagno tiepido, comunque una doccia molto dolce, tamponandosi con una spugna molto morbida, l'acqua non deve essere né troppo calda né troppo fredda, usando, al di là del senza conservanti, senza profumi, senza parabeni, dei detergenti proprio ecodermo compatibili, quindi poco aggressivi, senza polietilenglicoli, senza appunto i siliconi che non hanno un effetto nutriente ma solo lisciante, rendono bello il prodotto. O meglio ancora, bagni con amido di riso. Quello che si usa per i bebè. E poi dopo, torniamo, uscendo bambini dall'acqua, tamponare delicatamente senza strofinare troppo con un asciugamano morbido e applicare un prodotto cosmetico, come dicevo, ecodermocompatibile. Oppure un'alternativa è quella di mettere l'olio, ma non l'olio secco che è un silicone, l'olio vegetale, un olio di mandorle, al limite l'olio di oliva, l'olio di riso, qualsiasi olio vegetale sulla pelle prima di fare la doccia, e questo è un segreto. Ma comunque volevo aggiungere, a proposito del bambino e dei massaggi al bambino, mi è venuta l'immagine che ci sono purtroppo anche i bambini maltrattati. E oggi c'è una raccolta di firme, una mia amica Simona è proprio a raccogliere firme in piazza San Barbara per questa, a Milano per il CAF. Solo così per cui giustizia, noi abbiamo, perché noi vogliamo messo tutti anche un appunto, esatto, sulla nostra pagina, perché noi siamo attenti qui a essere benessere a queste cose. Grazie. Allora, noi abbiamo da Firenze, ci chiama Patrizia, dalla regia mi dicono che forse ha la risposta al quizzettone della dottoressa Serri. Io ho già qua vicino a me la guida al benessere. Patrizia, buongiorno. Buongiorno. La risposta, sono pressoché sicura, sia ectoderma. Brava, ha vinto. Brava! Cosa ha vinto? Il tuo libro meraviglioso. Guida al benessere. Come farne a meno. Come farne a meno. Tutte le sere mi leggo un pensiero, non è uno scherzo. Grazie alla dottoressa Serri. Perché a noi dottori chi ci cura? La Nicoletta. Speriamo. Grazie alla dottoressa Serri, ad Alessandra Callegari, a voi che ci avete seguito. Noi ci risentiamo come sempre domani. Buona giornata.